Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Gli italiani hanno scelto niente nucleare ed ecco che diventa ancora più urgente mettere a punto strategie per lo sviluppo di fonti di energia alternativa e soprattutto puntare sull'efficienza energetica che, lo dicono tutti, rappresenta la più grande riserva di energia di cui oggi disponiamo. Eppure, come emerge anche da una memoria presentata di recente dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas alla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, l'efficienza energetica risulta in qualche modo discriminata. Potremmo usare questo termine rispetto alle rinnovabili. Cioè potremmo dire in altri termini che tanto a livello europeo quanto a livello anche nazionale sembra prevalere l'idea, francamente molto discutibile, che la strada per produrre più energia, magari di tipo rinnovabile, sia comunque preferibile a quella di consumarne di meno. C'è chi dice che diventeremmo tutti più poveri. Ne parliamo con l'esperta dell'autorità e principale autrice proprio di questo rapporto che vi ho menzionato, Marcella Pavan, responsabile dell'unità di gestione e controllo della domanda di energia dell'autorità. Buonasera Pavan. Buonasera. La prima domanda che le faccio è questa: è vero che i meccanismi europei in qualche modo privilegiano le rinnovabili o, se vogliamo, discriminano l'efficienza energetica rispetto alle rinnovabili? Se si considera che l'obiettivo efficienza energetica è l'unico non vincolante rispetto a quello della riduzione delle emissioni e dell'aumento della quota di rinnovabili sui consumi, sì, ma in realtà è un falso problema se l'obiettivo è quello di ridurre le emissioni al costo minimo per il paese, perché allora l'efficienza energetica diventa una scelta imprescindibile e prioritaria. Però se uno ragiona in termini di obiettivi europei, il suo obiettivo è raggiungere il 20% di rinnovabili, nel caso dell'Italia il 17%, d'accordo? Sì. Sulla produzione elettrica, per esempio. Sì. È vero che questo potrebbe essere anche ottenuto facendo efficienza energetica, ma che di fatto non conviene in termini pratici? Perché viene discriminata, appunto? Sì, viene discriminata nella misura in cui non è posta sullo stesso piano rispetto al maggior uso delle fonti rinnovabili. Il rapporto tra consumi finali di energia da fonti rinnovabili e i consumi finali di energia primaria intorno all'obiettivo per l'Italia fa sì che l'aumento di una tonnellata equivalente di petrolio nei consumi da fonti rinnovabili sia equiparato alla riduzione di 5 tonnellate nei consumi totali di energia, e questo ovviamente di fatto privilegia l'investimento nelle rinnovabili rispetto a quello nell'efficienza energetica e fa aumentare i costi. Invece in termini di costo l'efficienza conviene? In termini di costo assolutamente l'efficienza è quella più economica, oltre che più pulita e più rapida. Ecco, rispetto a quali opzioni però? Qualsiasi modalità di produzione dell'energia risulta più costosa rispetto agli investimenti necessari per risparmiare quella stessa quantità di energia. Perfetto, quindi questo include anche gas, carbone, fonti convenzionali, non stiamo parlando solo diciamo delle rinnovabili, no? Assolutamente. Anche rispetto a produrre col carbone conviene risparmiare energia. In Italia ci sono i certificati bianchi che sono, come dire, lo strumento individuato e gestito proprio dall'autorità per incentivare le operazioni di efficienza energetica. Di recente proprio Nomisma Energia, Claudio Bianchi, l'amministratore delegato, ha fatto osservare come forse non li abbiamo sfruttati appieno. In particolare diceva che l'entità di questi certificati bianchi era troppo bassa per dare la spinta a operazioni di efficientamento energetico nelle industrie, mentre ci si è limitati praticamente a cambiare un po' di lampadine con quelle ad alta efficienza e a sostituire un po' di rompigetto con i certificati bianchi a questo livello, che sono circa di 100 euro a TEP. TEP è tonnellata equivalente di petrolio. Ma come giusto che sia, il meccanismo ha sempre avuto estimatori e critici. Mi sembra che le considerazioni di Bianchi trascurino alcune considerazioni. In prima battuta il fatto che stiamo parlando di un meccanismo di mercato e come tale orientato a garantire il conseguimento degli obiettivi fissati dal governo al costo minimo possibile per il paese. Se un meccanismo di questo tipo seleziona, così come è avvenuto, prima gli interventi che costano meno e si sposta solo dopo su quelli più impegnativi, quando il potenziale dei primi si è esaurito, vuol dire che il meccanismo funziona. Quindi... Lei dice, insomma, in caso contrario si sarebbero comunque cambiate prima di tutto lampadine e rompigetto, ma avremmo pagato molto di più quell'operazione. Questo lei sta dicendo. Senta, però i certificati bianchi hanno un orizzonte molto corto, potrebbero finire nel 2012 per quanto ne sappiamo adesso, e allora sì che sarebbero un'occasione persa. Sì, al momento il meccanismo ha un orizzonte al 2012, anche se in vari documenti il governo ha ribadito il ruolo centrale dell'efficienza energetica e di questo meccanismo di incentivazione, questo fa presupporre che con il prossimo piano nazionale sull'efficienza energetica verranno prolungati, e voi siete assolutamente d'accordo, immagino, su questo. Sì, assolutamente sì, e proprio in questa prospettiva stiamo lavorando per aggiornare la regolazione tecnica del meccanismo in modo tale da incentivare di più i progetti che noi chiamiamo più strutturali, cioè quegli interventi che portano all'installazione delle tecnologie con una vita tecnica medio-lunga e che quindi complessivamente generano i maggiori risparmi. Ecco, proviamo a fare un esempio: se uno sostituisce una lampadina, questa dura 4-5 anni, quasi mai 7 dichiarati, diciamo, e poi dopo, insomma, bisogna comprarne un'altra. Se uno fa un cappotto alla casa, per 30 anni avrà efficienza energetica. E quindi voi proponete di differenziare questi casi anche in termini di remunerazione. Come però? Proponiamo di riconoscere i risparmi che questi interventi generano lungo tutta questa vita tecnica e non limitatamente ai 5 anni che è la media attuale. Cioè, in pratica lei dice, se una tecnologia produce efficienza per 30 anni, noi gli diamo per 30 anni certificati bianchi, e se una lo produce per 5, glieli diamo per 5. Esatto, e questo consente di aumentare il contributo agli investimenti a parità di impatto sulle tariffe, che poi sono lo strumento che va a finanziare questo meccanismo. Grazie Marcella Pavan. Grazie a lei, arrivederci. È tutto, a domani.